qualcuno? Hola, soy Nathalie. Hombre, siamo qua. Com'è? Tutto a posto? Tutto a posto, da mettere a posto. Io un po' assente, non poi un po' assente. Lavoro, mi sono entrato poco fa. Lavoro. Vabbè, d'altronde. È così, mi hanno bagnato un po' da finendo lavori a Ossi. Ma voi non state entrando alla radio? Eia, qualcuno entra e molti altri no, magari se ne vanno al mare, preferiscono andarsene al mare invece di stare in radio. Ieri notte me ne sono andato a pescare con Gianni. Oh, beh, pescate bene. Oh, era tutto pieno di alghe e vie, non vedevano l'esca evidentemente. Ma dalla spiaggia poi siete andati? Spiaggia? No, la spiaggia con queste mareggiate così, non fa leccare, maestrare, sempre sto vento di terra. No. Dobbiamo andare dagli scogli, dalla banchina, capito? Ma troppe alghe ci sono, infatti, non la vedi in esca. Sì, lo faccio. Vabbè, abbiamo fatto una serata di festa, dai. A tardi siete andati? Sì, verso le 8 siamo andati. Io la dico, vabbè, non c'è problema. E Marcolino Condo, si è fatto sentire? Ieri c'era, oggi non si è fatto sentire quel crumiro. Chiappa, no, beh, io sono un po' impegnato con la lavoro, sto facendo tardi, e quindi niente, adesso mi sono seduto un po'. La gente mi ha detto, Lugani, la giornata è finita, da stamani, e vabbè, sono iniziati i turni e quindi bisogna farli. Bene, Meda, per il resto sta a posto? Novità abbiamo? Negativo le novità. Sempre tutto com'era, dai. Già va bene. E se non va bene lo facciamo andare bene lo stesso. Sì, ma infatti. Basta fare, bisogna farlo. Tutto cappa di rosma, troppo. Io. Benissimo. Gianni non si è sentito. Gianni non becce Gianni. Gianni Ghetto non becce. Va bene. Al mare non ci stai andando? No, ero impegnato stamattina, stasera lo stesso. E non sono andato per questo. E io c'è il tempo per andare al mare. A voi che non è tempo. Tanto. Cos'è di va? Ancora sta iniziando, non è manco iniziata, no, cos'è? Domani? No, oggi, 21 oggi. Oggi è iniziata l'estate, così. 21 giugno, oggi è iniziata l'estate, infatti. Non avete mai arrivato di gatto? Sì, non dirla a me ogni giornata, ma giornata si mangia. Ma siamo qui. Con 36-37 gradi lì alla zona di mare, capito? Un casino, e vabbè, e poi ci riposiamo quando arriviamo a casa, se abbiamo gli allucci. E lì infatti, sono qui con il ventilatore acceso. Comunque c'ho la finestra aperta e ti dico che sta entrando una bella arietta, infatti va giù la maglietta. Fatta una bella dieta fresca, capite? Rimaniamo così e va. Poi si vedrà più tardi. E io sono a petto nudo in pantalone alla zuava. Ma pantaloni quelli corti, a mezze maniche? Sì signore. Andava uscendo l'aria da sotto. Da giusto e da giura. Da sotto e da giura. Attento Marcolino, Condo, Ratta Pignara, ACCI. Ma che quella è a Platamono da quella zingara. Ah, è vero che lui scende a portare il pigiattino, che hai visto l'altra volta che ha fatto il rabbio di acciugo. Hai qualcosa, però sai, a me mi piacciono più le pappardelle. E allora, lui era fissato, via, che c'è Marco, ragazzi, disattento, e saramo, saramo che tu vuoi, no? Gana grossa. Beh, a chi se no non andava bene. Allora, se no non va bene, no? Allucinante. Sì. Ma dimmi tu, ti puoi far mangiare, pure i frattesi ti dico se devi mangiare. Ha detto fa una cosa, adesso muovi in fame perché non ti porto più niente a mangiare. E quindi c'è metà dei piedi. Ma che vuoi che ti dica? E cosa vuoi dire? Qua siamo anche noi a combattere l'avversario. In macchina, dove hai messo il barracchino? Lineale, trovato l'aria? No, lineale non ne ho trovato. Annullare quella carta che c'ho e farmene un'altra nuova, perché due non le posso avere. Ah, no, per poter ordinare sui beni? Più ben chi, se non ha nessuno, no. Bisogna via un leoncino e non la ciappa più. Non la ciappa più, non deve apporlo. Dì cosa vuoi che ti dica. Boh. No, io ce l'ho piccolo così, però è VHF, capito? 200 watt di VHF della Microset, tanto a costare un po' così lineare. No, vabbè, lineare è piccolo così, non ne ho, sono trafredato, intanto io in macchina non ne uso, quindi trafredato tranquillamente, ho usato, non me l'ha fatto nulla. Sono mia, ma è Marco, mi pare ne ha uno così, ma non è di quelli lì. E tipo di quelli a mostra è te stesso, ma serve a lui. Ah, lui c'ha il KLV, o il VV, cos'è il genere, tutti uguali soltanto. E infatti, RMS è una cosa del genere. Ah, è della RM, sì, sono buoni anche quelli. Bene, Meda. Guarda, sta funzionando tutto. Sono 3-4 giorni, tutto l'altro. Sotto il po' di niente, no? Ancora è nuda, ancora non è cominciato bene. E infatti notavo un po' di attenteismo, non vedeva mai nessuno. Io già accendo sempre, ma ieri già c'era cosa, come si chiama? C'era quello di Ussi, Antonello, infatti Giulio, Marco. Oh, Antonello Barracuda. Yeah. Una vita che non lo sento. Non mai che non lo sento Antonello. No, Giulio l'ho sentito l'altro giorno. Però ero talmente stanco che non ho chiuso subito, proprio 5 minuti ero morto. No, ma arrivi così a che ora, Carino? Non ce ne voglia, no? Se la mattina avessi operativo non fa, c'è un stacco di pranzo proprio di pochissimo, poi devo riprendere, seguire, fare domani, altro tran tran, capito? No, e c'ho trasporto di fanghi, due cassioni di fanghi da portare via, c'ho otto furgo a Padovella. Pulita e ha fatto l'acqua fantasy e immagino che cosa hai fatto. E che tuo spagnolo già essere, boh, non lo so perché non mi sentiva. Quante l'antenna di Blattica. Cosa vuoi che ti dica? No, l'antenna di Blattica lo guarda chi lo Giorgio. Attento Franco! Tu immagina che gli arrivo a Santiago 8 io. Guarda, guarda chi non Giorgio, la radio non c'è e l'antenna è gittata. Oh Franco! Sono lì che è 4 di non mi vedi che. Esci, dai, no. Appiccicato, ce l'ho, non mi molla. Così è. Ma niente, quindi sei sempre a casa, Brutto. Sì, mi hanno invitato se volevo uscire, ma non avevo gana oggi, se no è uscito. Poi avevo un problema alla macchina, al faro di dietro, che mi funzionava di più albero di Natale. E io per quello faccio contatto, poi c'è anche la lampadina. No, no, tutte le lampadine accendevano a intermittenza. Allora è quello spinotto che va attaccato al faro lì, vuole tolto, pulito. Sì, sicuramente. Devo buscare della carta abrasiva per pulirlo. C'è uno spinotto lì, capito? Che attacca, e poi c'è quella col portalampade con tutte le lampadine attaccate lì, ci va lo spinotto, poi distaccare, pulire bene con la tela, una passata di spray, capito? Invece in forma dell'oscido e vedrai che funziona tutto bene. E così farò. È certo che sì. Buonasera, ciao Mitus. Eh beh, Gianni doppio room. Segregati in casa, meglio che ci riusciamo. Sto rientrando io, segregato in casa, già. E 4 giorni qua tutto spento. Mi sto rientrando adesso. Poco fa sono rientrato, là, 6:30. No. Vabbè. No, io me ne andrò sicuramente a pescare adesso, non ne ho voglia di starmene a casa, c'è troppo caldo. C'ho l'esca, prendo le birre e mi nado. Fra un po', porto giù il teso e poi vado a pescare. E già, ma c'è il metro all'otto, dalla spiaggia, troppe alghe ci sono, capito? Ti conviene da muretto. Lo so, ma a fianco alla Bernaretta, in quelli scogli che ci sono lì, vabbè. Sì, da scoglio, da, capito, la banchina, ma la spiaggia non fa perché c'è troppo vento e non vedono l'esca, capisci? Troppe alghe ci sono adesso. Lo so, ti fa la parrucca, siamo andati l'altra notte ma non faceva, abbiamo solo preso il tempo e basta, faceva la parrucca di alghe. Non lo vedono, troppa disacca ha fatto questi venti di terra. Greccale, maestrale, capito? Non fa, conviene più da scoglio, la banchina, allora riesci a divertirti. Vai Catarino. L'ho salutato, forse abbiamo parlato in due. Ciao già. Ciao a te. Vabbè, adesso vediamo, dipende dalla Puglia, le scaccerò. C'è anche quella di Natalino, quindi se Natalino può venire non c'è problema. Lo so, ma mia moglie è ancora fuori, cazzo, già, è un casotto. Ho fatto la pettorina a Kurt perché l'altra non la trovo per la giovata, tipo quella di Tyson. E come ti viene fatta? Sapessi. Mi non posso immaginare. E cosa ti puoi immaginare? Pari cazzo con parada. In pelle le fa. No, con quelle cintole che ci sono nei borsini, quel materiale lì. Non gliela faccio con pelle. Già si può fare in pelle pure. Basta avere una cintola. E uno a me me l'ha detto, fammelo vedere com'è. Che la devo fare in pelle. E la pure, anche la pure, io mi sciuga, se l'ha fatta anche bene. E voglio vedere la forma come dovrà essere. Infatti. Non è proprio precisa quella di Tyson, però il meccanismo è quello, capito? Poi non va più i ribattini per fargliela bene, ma gliel'ho fatta così perché sennò quel cane gru, collare mi si stavano rompendo le scatole. Ma vuole far venire la tracchite il collare così? Io ce l'ho, lui ce l'ha il collare, però come una catena. catenina, capito? C'è la medaglietta attaccata e basta, non lo uso come collare. L'ho usato solo l'altro giorno che ha portato, ho visto questo cane. Cazzo, se è uscito dalla pettorina, se non aggrafo per lo collare, si attacca. Se no questa signora Anita, cazzo, come entri la vita giù ma si ramagna. Signor Romantinino qua, pacca bagialla, oi oi oi. Perché mi vede diversi, capito? Meglio così, così deve imparare il cane. Se li deve mangiare tutti questi. No, quella è anche incinta, poverina. No, si la devi mangiare qua stessa. Bravo, è bravo, io la conosco, bravo. Mi dice ciao, ciao, come stai? Sempre mi dice così. Claudio. Io ho fatto guardando, c'è un po' di tempo già. Non riesco a capire cosa c'è, se è maestrale, se è greccale, un poco centrale, un poco di bianco, se non è greco maestro. Un bello forte qua su, eh. Lo so, ma io vado, mi faccio il giro, se poi vedo che c'è cosa, maestro a porto dottore, se vuoi faccio il giro lì. Cosa me ne affido? Se andare in spiaggia posso andare dagli scuri, però di notte dagli scuri è un po' problematico. Ci sono anche tutti quei massi che hanno buttato, hai visto, il Gobalai, c'è presente quella massicciata che hanno fatto? Sì, quella di protezione proprio per il maestrale di fronte lì a dove c'era prima la cosa, non si chiama. Oppure cos'è quella? Acque dolci, cos'è? Dopo lo scoglio lungo, là. E via le acque dolci. Qui se di giorno va bene, ma di notte, ecco, metti un piede a mare, cazzo, se gaggi in mare, non te c'è a fare il mio. No, ma di notte vai lì, no, già. Di notte di sicurezza, la banchina, come andavamo noi, capito? Busato, la gadreta, giusto per passare un paio d'ore. Lì si va di giorno, certo che sì. Ma quello che dalla banchina si può più fare pescare, se no sarei andato in Chivido, per pescare sempre orate e roba del genere. Se ci sarei andato, non si può più andare. Se ti trovo ti metto la multa e ti sequestrano tutto, 1500 euro di multa, la capitaneria ti mette. Accidenti, come ti si ammazzando anche tu? Avevo già agito, non ho capito, ma cosa serve? Uno va lì, giusto per passare una letta, che male sta facendo? Non so, ma sono le barche che entrano, cose, a me mi hanno buttato una canna in acqua, una volta, lo fanno apposta, passano rasette, adesso tutto il luogo vive passa le rasette, chissà bigottina dei rimorchiatori del porto, come si chiamano, i barcaiuri. È passato a fianco, me l'ha buttato la canna, e come l'ha buttata, me l'ha buttata anche due o tre persone, ha ricaricato il dinastico, che si va per buttarci i bigattini, hanno messo i piombi, li ha recuperato l'ubretto, e le fasce dell'ubretto della pilota. Che sciude. Vabbè. Non è una cosa che va bene, però cazzo potevano stare più attenti, no? Cazzo c'era il posto a passare, sono passati i rasetti apposta per buttare le canne, lui fa una posta, capito? Anche pescherici, una volta avevano preso la canna, poi l'hanno tirata su e me l'hanno lanciata dall'alto e mi hanno spaccato il bulinello proprio dove si aggancia. E lì c'è proprio fa la portatura. Lì dove andavamo assieme, là, in quella insenatura fece. E lì. E adesso non sai se ci sono pescherici, se non ce ne sono, adesso di notte magari no, perché partono la sera, no? E si libera tutto, poi magari vengono la mattina presto, ma di notte mangia un bel ricca, i cucchiai partivano a rato, te lo ricordo? E normalmente sì, poi è andato tutto peschereccio, noi ha nettato la rete, la già ha nettato io la rete, è nata lì. Gli utili di frittura mi sono fatto. Rionda! C'è chi male è fatto. Buona. Eppure prima ce la buttavano, cracoli, li ho visti io con i miei occhi. Pulivano le reti, toglievano il pesce del Rionda che era la papà mai. E invece adesso la vendo. La vendo, una buona vita, è imparato il fissarissimo. Passava anche buono. Mamma, certe mangiate ce ne faceva fare. Passava Antonio, Antonio Curto. Oddio Paulino la mattina presto che lasciava mamma appena le trasviene. No, ne ha mangiata. Mi su pescio, fisciu me, su giù. Allora sei un bel buono, piace anche a me. Sia quello che mangia tutto mi piace. Ehi, mangia tutto lo stesso, però quello è molto gustose sono, molto gustose, infatti lo comprano adesso prima come tutti si rompavano. Quiscio o il così, come si chiamano, i la no, quello che è buono fritto lo stesso, è tutto colorato. Quiscio, ma è tanto sono buoni i sci. Che sarebbero le bavose, dai, chiusi si chiamano in italiano. Capito, già nel problema che facevo pesca subacquea anche i grossi ne ho preso da 350 a 400 grammi. Belle sono queste, belle, belle, belle, belle. Ma mi ha preso un recco, quando la produttore c'è mamma glielo portavano a casa, Danilo, veramente Danilo, io Paolino, Antonio passava, c'era quello Gavino Carboni che è morto. Tutti, tutti passavano in via Cavù, e abbiamo uno poi c'era uno, grazie, la gente c'è con Parelli. Andava sempre appena entrati. Lo so perché aiutano a scaricare, poi gli regalano le case di pesce, se lo vedono, loro fanno doppio lavoro. Fanno doppio lavoro, prima lo scaricano e poi lo devono vendere anche. Sì, sì, ma la parte che rispetta forse il marinaio, non so, comunque sempre, sempre, sempre. Sempre si mangiava pesce a casa, stava pesante, era in pescheria con parallo, magari era di prima. E quindi Natalia hai fatto un collare? Ah no. Ma è come l'hai chiuso, con gli anelli? Ma le viti li hai messo allora, i ribattini non li avevi? No, l'ho fatto con un altro sistema. Però quelli lì li tolgo e li metto i ribattini. La cucisco bene, adesso gliel'ho fatta così alla bella inizio, perché il collare lo stringeva troppo, chi tira, chi su cane, va, lo vince di tirare, compreso. Poi con mia moglie di 90 come ti anda conmigo, con me va tranquillo, invece con mia moglie tira che cosa amara. Il buco, lo stesso, come l'aria non tira, tira ma di meno. Poi mia moglie è vedere come una bandiera. Vabbè, animali sono. Cazzo, gli ho fatto anche il maniglio a me per pigliarlo, come quello di Saggio. La maniglia? Ah no. Ah, io ci devo andare a vedere, c'è troppo. Se mi fanno il nome. Il nome per il cane. Dove c'è scritto lo sai dove andiamo? Da quelle di Viale Fototorre, via San Paolo, lì che fanno le divise lì, e lì ce lo fanno lo strappo, quello che strappa, e lì va a scrivere il nome e li attacchi, assai più. No, qui non c'è sana, vai, glielo puoi fare nella targhetta. No, che c'ha gli affari che strappano, glielo vuol fare lì così Gianni, glielo vuol far scrivere in grande, capito? Ah, no, no. Tipo c'è la targhetta della fatta Pinuccio Sanna lì ai punti. Io non mi come dire, capito? Vuole fare copemi e fare targhette. Coincide nel guinzaglio, no? Sotto nella pettorina stessa. Ci ha agganciata la targhettina lunga a un dito. Col nome e l'indirizzo, capito? Nome e indirizzo di abitazione. E invece Sergio c'ha il nome e il numero di telefono dietro. E l'ho fatta da tuo market, la fa anche lì. No, il telefono è buono, c'è l'indirizzo. C'è l'indirizzo di casa e basta. Capito? Se si perde, ma non si perde, non ha da lupo. Quello si perde. Ora sono 7:15. Ma Marco non senti giù. Marco! Ubriacone fragico. Si è sceso al platano a portare il salame alla sua ragazza. Non ci può stare senza salame quella lì. Siete campani approfittenti, la domanda della magna, la navega di ravioli l'altro giorno. E andate la Kendici. E non è che ci cosa l'ha detto, che non portarne i ravioli. Possibilmente portarle salame. Salame, cazzo. Ui. Cazzo buongiriato. Sì, era molto di fame, ci sono stata per me. E dopo non è persona molto affidabile, non è una brava donna. Forse stata una persona brava ad aiutare, ma questa qui, cazzo, l'avevano rimessa qui. E l'avete già pagato, la sua pena? Sì, vabbè, l'avrò pagata anche, però ha già fatto anche le cose sue. E penso proprio di sì. Si l'hanno acciappato un uomo in macchina, dovete lo porta bagagli, sequestrato. Quindi penso che la parte sua l'abbia fatta. Eh sì, non è certo una persona affidabile, ma quasi che abbia anche cambiato, ma non penso che la gente così cambia. Quello che c'hanno coraggio di fare cose del genere, cazzo, bene che è una persona, buttava dentro il portabagagli legata. Cazzo, chi c'ha il coraggio di fare una cosa del genere? Lei, però, dice che non c'entrava niente, così ha detto. Intanto in Chivia chi vuole a Gaggia, per carità. Ma scusa, è d'estate, col turismo che c'è, rilasciano ancora questa campana che si è fatta. Ma è fuori, fuori da ogni cosa, da ogni regola, da ogni cosa. Cioè non ne fa di niente. Stanno anche facendo i lavori a Platamona, stanno buttando giù muretto, cose, non è da demasi. Ma guarda, io sinceramente parlando non l'ho ancora vista. Mi ha detto mio fratello, non c'è questa lì, come ha detto Marco, insomma non ho capito come è sistemata, ma lì deve intervenire il comune, i vigili urbani, i carabinieri che fanno andare via, se quella non è una occupazione del suolo pubblico, quello ho capito, quelle pensierie sono fatte per il tram, non per metterci la gente dentro. Cioè la gente va a crema di casa, non so, non si può punire sotto la pensierina, aspettare il tram perché c'è lì. Vabbè. E comunque sai cosa ha fatto? Gli angel, quelli che praticamente soccorrono sempre queste persone disadattate, hanno fatto, gli hanno messo praticamente dei teloni di quelli grossi sopra la pensilina. E praticamente hanno coperto tutto, lei dorme dove c'è sotto c'è la panchina, lei ci ha fatto il letto nella panchina. Sì, occupazione di suolo pubblico, non esiste una cosa del genere, capito? Quell'occupazione di suolo pubblico, lì deve intervenire le forze dell'ordine, smantellare tutto e mandarla via. Ma perché gli aveva battuto il se aveva niente? Subito, ma nemmeno un giorno per durato, invece questa qui c'è tutto l'inverno, lì che c'è un freddo, con il mare in tempesta, la pioggia, boh. Mi voglio una barracca che mi metto la binetta, capito? Da qualche parte, dalle un coso provvisorio, un container vecchio, non so, non ho mai una idea che anche via, a dormire in mezzo alla carriera. E a volte le leggi sono sbagliate, capito? Veramente ho detto bene, se lo facciamo noi, terretani subito, terretani proprio. Ma il Pinetta non attira l'attenzione della gente, lui quello che vuole fare è attirare l'attenzione, capito? Di modo che la gente ne abbia pena e che vi dia una sistemazione. Ma che appena vuoi avere per una persona del genere, hai detto bene prima, fosse stato veramente un barbone, con dei problemi che praticamente hanno, no? Sociale. Allora si potrebbe anche aiutare, ma che appena vuoi avere per una persona che ha fatto del male ad altre persone, io non ne ho pena. È come Terrina che lo vogliavi mandare a casa. Ma dimmi tu, cazzo, quella gente che ha fatto ammazzare. Quella sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare proprio il vaso, nel senso lì era caduto il governo immediatamente. Ma come fai? Ma come si fa? In carcere devi morire, in carcere, capito? Hai l'ergastolo, muori in carcere, perché devi morire a casa tua? No? Tu cosa hai fatto? Hai ammazzato a Falcone, a Borsellino, hai fatto mille casini, hai ammazzato tanta di quella gente che non viene bene a dirlo, e adesso stai chiedendo pietà perché stai male e vuoi morire a casa tua, in carcere devi morire. Ma infatti, cioè, io potrei capire una persona che non ha nessuna colpa, che si è già di busuri, che non ha fatto niente di male, magari ho vestito una persona, l'ha ammazzata ed è in galera malissimo. Però cazzo, una cosa personale del genere non la capisco. Oh. Infatti già muoio in carcere, a futti se non riesci a dialogarci, se non succede la rivolta, succede, ma stai scherzando. Vai Natali. Sì, infatti, se si gira la rivolta, aspetta che deve essere venuta mia moglie. che una persona del genere non può uscire fuori, è capace che faccia ancora del male se esce fuori. Oh già, questa gente ce l'ha nel sangue, hai capito, no? Hai visto cosa ha fatto Mesina? Ah, ma porca miseria ladra, ti hanno dato la grazia, ti hanno graziato, hai iniziato una nuova vita e poi cosa ti sei messo a fare? Di nuovo il delinquente, non c'è niente da fare. Dopo tanti anni che è stato dentro, che ha toccato la libertà, e non ne ha approfittato. Ma stava già lavorando, mi stava facendo la guida turistica, mi portava nel motorotto bene, mi faceva passare tutta la macchia mediterranea, cosa. Lui conosce bene i posti perché si nascondeva lì. Quindi faceva girare tutti i turisti, li accompagnava, faceva un accompagnatore turistico, capito? Una macchina piena di droga, per carità, infatti te lo sto dicendo, cioè riguarda a Corona. Corona era da un anno, perché cosa? Per evasione fiscale, perché chiaramente aveva evaso il fisco, non ha fatto niente di male, non ha ammazzato a nessuno, gli hanno ingraziato. Immagina se tu ci avessi dato 10 anni a Corona per quelle cazzate che ha fatto e avessero fatto uscire a Totorina, mi sarebbe successo il finimondo. Già sono successe certe cose. Che magari uno ruba perché ha fame e lo mettono in galera, un altro che magari ruba in una gioielleria, fa la rapina, dopo due giorni è fuori. Ma se sono leggi sballate, capito? Dipende anche dalle conoscenze, da tutto. Di che mondo viviamo, non danno i soldi a questi immigrati, c'è gente qua che sta morendo di fame, gente che vive la strada piangendo, facendo perché non ha la casa, non aiutano, capito? Vabbè, quelle portavano a parte perché non volevano aiutare, perché lì non ci andava, perché sennò sembrava di essere ancora in galera, che ci sono gli orari dell'istituto. Nabone in albergo di prima classe, la baronessa. Ha visto quel gioielliere che ha sparato, oddio, per difendersi, però era armato, quindi, perché stava molestando la moglie, dopo 2 o 3 rapine che aveva già subito. Ha sparato, ha ammazzato un bandito, capito? È condannato per omicidio volontario, è un'accusa pesante quella. Speriamo che ne sia pulito, se no va a finire in galera, cioè, ma stiamo andando a finire veramente male. No, io guarda, non sono d'accordo su questa legge che c'è, perché uno cazzo deve il suo posto di lavoro in casa sua, deve difendere la sua proprietà, c'è poco da fare. Se uno è ammatto e cosa ti minaccia, ti devi difendere, è poco di va. C'era su Facebook, c'era una lapide dove c'era scritto: in questa casa, visto il costo delle munizioni, non si sprecano colpi a vuoto, nel senso che cazzo, se sparava addosso. Ma scusa, se tu guardi a fare una rapina sei armato, oramai i gioiellieri hanno il porto d'armi, capito? Perciò se tu mi difendo, ti paro, ti ammazzo, mi condannano per omicidio volontario. Cioè allucinante, cioè non capisco le leggi che abbiamo in Italia, perché lo fai da altre parti, non ti va di nulla. In Italia da 10 anni, questo indagato, hai capito? Sono bisogno di garanzia e adesso è un'attesa di processo, un casino. Ma non hai visto a quel mio amico al rifugio? È andato un embriaco, voleva da bere, non gli ha dato da bere, l'attacca adesso e l'ha sparato. Interessante, cioè allucinante. E quello è il ragazzo che è morto, dov'è? C'è a Napoli, che l'ha aggredito qui sul russo, un delinquente, a pugni, a calci, perché aveva, dice lui che aveva rubato non so che cosa, il portafoglio alla ragazza, alla donna. Dice, ma così la basso? Allora dopo il portafoglio vedrai quanto ero dentro, ma ti non abbassò. E la gente sta scendendo di testa, capito? Non ci sta più. Infatti bisogna stare molto attenti anche con chi si ha a che fare, con chi si bisticcia, perché molte volte ti, anche uno che non ti dà la precedenza ti viene voglia di mandarci in quel paese, però bisogna stare molto attenti perché c'è gente armata come quello di Liputti che l'ha sparata alle gambe, dopo che non le ha dato la precedenza quello gli ha detto cosa, ha preso e l'ha sparato, se ne è sceso dalla macchina quello per andare non so dove, che l'ha sparata alle gambe. Allucinante. Veramente non si riesce a capire in che mondo viviamo, se dobbiamo vivere con quest'ansia, con gli incubi e con la paura di chi sempre devi guardare in faccia o affrontare, perché è un casino. Questi giorni io stavo un po' seguendo la TV, la gente si è tutti i colori a vero, di tutti i colori. Perché finché uno si difende con le mani è un corto, ma da uno cava la pistola e tu puoi essere forte quanto vuoi, e la pistola ti rappa a terra, è poco di loro. E la pistola giù, tutti con curte di busciacca. Ha visto che oggi nelle risse, cioè non si affronta più come i vecchi tempi dove curava i giaffi e i pugni, a mano per qua. E ti bugni, non muoio. Infatti c'è gente poco affidabile in giro. Quel mio amico poveraccio che doveva pescare con me, lo conosco benissimo, si è aperto questo locale, dai. Non è nemmeno un circo, è un circolo privato, dai, deve essere tesserato, però fanno karaoke e tutte queste cose qua. Andando bene, cazzo, questo qui è entrato, adesso gli ha fatto spaventare anche il cliente, ha sparato tre colpi, due è riuscito a schivare e uno l'ha preso al braccio. Questo quando? Da poco? Settimana scorsa. Ah, l'ho sentito, sì, ho sparato lì alle punti. No, non alle punti, in via la Marmora, al rifugio. Cioè, scusa, allora sì, Sassari Vecchio, in via la Marmora, Carriera Longa. Esatto. Preso al braccio, non ha cosa, se lo prendeva sotto guai, cazzo, lì è pericoloso, prendeva sotto al braccio guai, ha detto che tu riuscite a schivarmi i colpi, ma cazzo non l'ha abbigliato proprio in piano braccio, ci ha messo il braccio davanti per non prendere la più posta. Dove siamo arrivati veramente? Dove siamo arrivati? Non ce n'è per nessuno, proprio, non ce n'è per nessuno. È una vergogna, sì, ma per legittima difesa deve passare la legge. Deve passare per forza, perché uno ha il diritto di difendersi. Ma pure un carabinieri, cioè, capite? Anche i carabinieri, forse l'ordine, non possono sparare per primi, non, capite? Quando ti ammazzani, allora puoi parare. Quando sei a morto, però, Però devono aspettare sempre che usino la pistola di altri, sì è vero, ha detto anche mio socio, che praticamente devono aspettare che gli altri sparino per primi, ti devi riparare e quando sparano puoi sparare anche tu, quindi se disibilia, però tanto se quello lì azzecca il colpo ti ammazza. Ma quello incontinente da poco, un paio di mesi fa, mi ricordo col posto di blocco dei carabinieri che non si sono fermati al posto di blocco, hanno attimato l'altro eccetera, hanno sparato loro per primi, capito? Che erano in fuga da una rapina, non so da che cosa, non mi ricordo come era andata, hanno sparato per loro per primi, capito? Il carabiniere ha reagito al fuoco, l'ha preso dietro nel vetro di dietro, il proiettile ha sfondato il vetro, capito, l'ha pigliato l'amore del gordo, l'ha morso all'istante, certo l'hanno condannato già, ma non si può vivere così. Un casino, poi da in America roba del genere si ricondannano quando arrestano la gente, piccoli di burro che vedo fanno una mania di picchiare la gente, cazzo, specialmente quelli di colore, mi ricordi non bene. E diciamo quando fanno irruzione, hai visto l'America quando infatti, no? E chi non sa tenere la tira e molla, lì ammazzano, capito, rispondono al fuoco, tirato di sci e ti ammazzano, hai visto quelli che avevano fatto quella strage nella scuola, no? c'è la mano, non sa giù bambini, professori, eccetera. Ma cosa addormentato, cosa addormentato? Sono andato a chiudere il portello del contatto dell'acqua. Ma muovere si deve il contatto, vedo mio si muove tutto quanto, la calotta chissà bianca, tiro puntatori, là. La calotta bianca, ma il tappo o la calotta di sotto? Quella che dove c'è la lettura, quella deve girare. Ah vabbè, ok. No, quella bianca si può muovere assieme al tappo, deve rimanere fermo il lettore praticamente, quello fermo rimane. E quando apre l'acqua si gira, già funziona il contattore, ho controllato, l'anno da casa da becco e mi giuria viene, mi hanno messo qualche cosa, allora la giudurra da sarà, zitta, è un altro. No, sarà, come ce l'ha tratti? No, avrà chiuso lo sportellino. Capito, no, contattore? No, no, quei contattori nuovi dell'Open, quelli devono, c'è il tappo con la ghiera, quella bianca che deve girare, si muove, dai, capito? Si muove, non c'è problema. L'ho fatto apposta per leggere la lettura, il fontaniere se lo gira, legge la lettura, capito? Sì, bastava andare alla lettura, perché se no fa me cosa la frufru. Sempre la mandava a Manova, ogni volta mi mandava la lettura, ma già quello ci facevamo pagare. No, adesso non funziona più così, è tutto online, capito? Adesso i fontanieri con la macchinetta, mese per mese a zone, l'abbono a misure è stato creato apposta. Sono due società, abbono e abbono a misure. Abbono a misure si occupa di quelle cose, capito? Quindi girano a zone e fanno le letture dei contattori condominiali, capito? C'hanno lo strumento, tutto online, leggono e mandano al centro elaborazione dati. Il centro elaborazione dati poi fa la fatturazione in base a mettere il cubo che tu hai consumato. E se no, ragazzi, li ho pagati a fare, gira più, lascia arrivare, tutta la puoi prendere, te la tieni in un foglio di carta, oppure ci abbiamo i telefonini, le fai la foto, nel caso ti fatturano 300 metri cubi e tu ne hai consumato 270, allora puoi contestare, capito? Ah, no, noi la portavamo lì, in via Principe Saiolanda, tra le cure. Sì, beh, prima si faceva così, adesso no, adesso da quando è nata Badone Misure fanno tutto loro, capito? Non te ne accettano neanche, fanno tutto loro, però è sempre meglio ogni bimestre farti la lettura tua e tenertela, capito? In modo che quando poi ti arriva la fattura tu controlli. Allora, a fine del secondo bimestre, fammi vedere quanto ho consumato, 276 metri cubi, ok? Qui c'è praticamente un anno fatturato, 320, perché se io ne ho consumato 276, allora puoi aprire un contenzioso, capito? Perché sembra poco, però, quei 30-40 metri cubi per il costo che ha l'acqua sono soldi. Ma noi ci è arrivata la lettera che praticamente se non pagavamo quei 650 euro di conguaglio che c'erano ci staccavano l'acqua per 10 giorni e stavo facendo una riunione per questo l'altra volta e non ne volevano pagare, io ho detto questo, paghiamola, poi se ci spetta ci mettiamo una boccata, se no si paga la boccata e ci ritornano anche i soldi, una volta, cioè, poi farsela staccare per 10 giorni, chi ci va a farsela riallacciare, è un casino gioco della bandiera, come faccio? E allora abbiamo deciso di farle parti uguali per questa volta, di pagarle parti uguali, anche se c'è gente che è da sola, gente che magari ha 5 componenti in famiglia, qui dovrebbe pagare di più, abbiamo deciso di pagarle tutte in parti uguali e di tappare questo buco. No, ma non le paghi, riallaccio già, se c'è un contenzioso te la tracciano, quando poi è avvenuto il pagamento vengono te la riallacciano, non è traccio, capito? Per morosità è un contenzioso che tu hai, loro te la sospendono per 10 giorni, che mi sembra anche troppo, perché mi pare che sia per 5 il massimo per il contenzioso, se poi per morosità allora è un altro discorso, allora ti tracciano e poi devi riparare l'allaccio, capito? No, l'abbiamo pagato anche noi già, l'abbiamo pagato anche noi, era un conguaglio dal mi pare al 2012, 2010, 12 e 14 del passaggio tra Sinos e Abbanoa, perché Abbanoa è iniziato a giugno del 2005. Quindi siccome il comune non ha fatto il passaggio che doveva fare, tutte le utenze sono rimaste praticamente con questo conguaglio da pagare, con questa differenza, e quindi loro hanno messo a conguaglio, capito? Però si poteva anche rateizzare, volendo. Sì, vabbè, ma comunque c'è stato qualche promotore che ha fatto ha unito un po' di gente per non pagarlo, questa cosa qua, e si voleva che andassero tutti quanti alla coda, forse per per cercare di, hanno detto comunque di non pagarla, perché non era da pagare la coda, quindi molta gente non le voleva pagare per questo. C'è questo tipo di oristano, mi pare, che aveva formato questo gruppo là, diciamo così. Sì, sì, e beh, la Cons aveva fatto anche un, c'era stato anche lì a Cosio, alla TV a Quinta Colonna, una cosa del genere, in continente, dove appunto c'era un similare a questo che noi avevamo in Sardegna, dei conguagli, dove l'azienda idrica aveva inserito alle utenze più di quello che dovevano pagare. La Consproprio aveva detto che non era assolutamente fattibile una cosa del genere, perché era un danno contro l'utenza. Però poi alla fine è un casino, già, avete fatto bene, la paghi, poi metti tutto in mano avvocata, io recupero questi soldi, perché noi abbiamo pagato per vivere sereni, però vogliamo capire, capito? E poi magari o te lo mettono di nuovo a conguaglio, quindi non paghi per la differenza, che se ti arriva 200 euro di luce, 150 gli hai dato, ne paghi 50. E ti è già successo, io sono stato alle utenze, è già successo, capito? Di fare a conguaglio per differenza, quindi non è un problema quello. Se è da fare si fa, però. No, ma noi nel condominio abbiamo un avvocato che abita qua nel mio palazzo. E ha detto, io da avvocato vi direi di non pagarle, perché? Perché ci fa la causa, io ci guadagnerei, però da condomino dico è meglio pagarla, perché se no ci staccano l'acqua e poi per 10 giorni rimaniamo senza acqua. Io questa non me la sento, dice, stare senza acqua per 10 giorni, se voi ve la sentite non pagate. Sì, ma infatti quella è una persona seria, un avvocato che ragiona con Lugabu, perché l'avvocato ti potrebbe dire a me, mi dite la barcella, mi fa bene, non le paghete, però siccome io abito nello stesso condominio, paghiamola e basta, si finisce lì. Poi se dobbiamo fare causa la facciamo dopo, in un secondo momento, capito? Perché te la tracciano, sì, te la sospendono, ti sospendono la relazione, dopodiché te la riallacciano e capito? E io ti riscatto adesso. No, noi è lo stesso, ci è arrivato, però siamo in tanti, abbiamo fatto per differenza e sembra lo stesso, abbiamo messo 120 euro a testa, un centinaio di euro a testa, e l'abbiamo pagata, capito? Sono le 8:20, sono là, io vi lascio, vado a portare il cane, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Provo i 150, ehi Andrà, comunque ti volevo dire una cosa, l'ultimo passaggio. Se non vedi di prima necessità, loro possono farlo per avere questa carta. Secondo il bene, quindi un ospedale, un ospizio, una camera di riposo, un asilo nido, capito, tutta una scuola, non lo possono fare. Secondo loro dicono che lo possono fare, ok? Perché anche se non bene comune, la società è privata, tu non mi paghi, io ti traccio, però non lo possono fare già. Il TAR del Lazio gli ha dato ragione ad una casa di riposo di Olbia, capito? Perché per morosità loro hanno tracciato l'acqua e hanno messo in grossa difficoltà questa casa di riposo, dove c'era gente anziana, capito? Il TAR del Lazio gli ha dato torto e quindi hanno riallacciato e hanno tolto la morosità e hanno messo a disposizione appunto della casa di riposo stesso, quindi dei proprietari, la dilatizzazione. Ah, ecco. Allora, non c'è scala scende adesso, io sto scendendo sopra l'8 e mezza così, poi me ne sto un po' giù a parlare tranquillamente e via. Già, è uscito presto, ho capito, lui non esce di pomeriggio, tu a volte, lui non esce, è uscito a luna, sono già l'8 manco 20, mezza giorno e mezza. Fate qua, che sta girando a destra e a sinistra, non vuole che facesse qualche bisogno. No, non ce n'è caldo, non c'è. Poi venticello, poi me ne vado qua sotto gli alberi, il giardino, è grandissimo questo giardino interno. È l'opportunità, stiamo andando. Lui quando si siede si appoggia al muro, lo dighi e sta a prendere un buco già, dai, scendo. Ehi, ehi, dai, ciao, ciao, ci sentiamo, va a passeggiare. Natale. Ehi. Ciao, sei qui. Perché ce l'avevamo in giro, va bene, già tutta la mattina, quindi non c'è stato bisogno di portarlo a luna, se no io lo porto a luna. Lo so. Adesso tra poco lo porto, quindi lo lascio qua e scendo, poi se mi viene voi ne vado a pescare, se no quando andiamo. Non sei uscito in radio, Natale, non sei uscito in radio. Ora. Allora, adesso? Adesso sì. Hola. Ma adesso se forse hai cliccato male a portare. Hola. Hola. Già sto uscendo, ma... Guarda un po', era basso. Ora. No, già stai uscendo adesso, capito? Ma era basso, pure hai cliccato male il tasto e non si uscì. È stato toccato, perché me ne accorgo subito se esco. Era basso il macchinino. Ah, ho capito. Adesso che microfono stai usando? Il suo, quello normale. È una bellissima radio. Questo qui qual è? Quello blu. Ah, che bagaglio. Come di vento c'è. Invece io vado a prepararmi la carità. Ti saluto. Ci sentiamo domani mattina, va. Se prendo qualche ora te la mando via foto. Fa così. Ma poi magari la biglia che non bisogna che bastardo. Ma se vieni. No, vai. Che sto facendo questo affare qua, se no lo rimane tutto così e non riesco più a calarmi i piedi. Mi sono fatto a meglio un pezzo, c'è cosa. Allora, ci sentiamo, ciao. Ciao.